Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siamo sempre noi, anzi io, di 451 intersezioni, trasmissione di musica sperimentale, di ricerca che va in onda ogni lunedì su queste frequenze dalle 20 alle 21. E 451 intersezioni ha chiaramente anche un blog dove potete comunque pescare le puntate passate, presenti e future in podcast o scaricare anche l'MP3 della trasmissione con alcune notizie relative soprattutto agli autori e agli album inseriti in trasmissione. Il nostro blog è sempre 451frammentisonori.noblogs.org. oltre alle puntate di 451 intersezioni ci sono anche le puntate di 451 frammenti sonori che va in onda sempre il mercoledì su queste frequenze da mezzanotte alle 2, condotta dal mio amico e compagno Max Macchia. E 451 intersezioni stasera affronterà un tema che è molto amato dai musicisti, dai cultori, soprattutto delle sperimentazioni legate all'improvvisazione radicale, al free jazz, ma anche una certa elettronica che lavora sulle trasformazioni, sulle mutazioni, sulle metamorfosi degli strumenti utilizzati. Stasera parleremo di strumenti non soltanto acustici, elettrici, ma anche elettronici. In particolar modo inizieremo subito nel percorso di stasera affrontando due progetti che si muovono sull'improvvisazione radicale, sul free jazz, e dunque affronteremo il tema della trasformazione, della metamorfosi dello strumento, in questo caso acustico ed elettrico. Puntata dunque stasera intitolata Strumenti in trasformazione, e subito in apertura non poteva mancare un genio, un grande manipolatore e artista e artigiano dello strumento come John Butcher, sassofonista poliedrico della scena impro, ma non solo, inglese, che oltretutto abbiamo avuto il piacere di ascoltare e vedere circa 3 settimane fa all'Area Sismica con un concerto da solo straordinario, dove appunto John Butcher lavorava sullo strumento sax, tenore, contralto e baritono, modificando continuamente il suono, ma anche il modo in cui suonare lo strumento sax, dunque manipolando con il fiato, con dei soffi, con una microfonazione e anche dei tasti, creando delle percussioni, delle ritmiche e delle sonorità quasi appunto distantissime dal suono originale a cui noi siamo abituati, legata al sax. Dunque anche qua, tutto sommato, stasera affronteremo il tema della scorsa puntata che era intitolato Percezioni stranianti. Anche in questo caso l'ascoltatore ha uno straniamento nell'ascolto di uno strumento, e soprattutto dal vivo si può apprezzare molto di più questa metamorfosi, perché ci si trova di fronte un musicista sperimentale e assolutamente geniale come John Butcher, che però fa uscire da uno strumento a cui noi siamo abituati ad ascoltare ben altro, dei suoni che sembrano distantissimi appunto dallo strumento cardine di questo musicista. Però stasera proveremo lo stesso, anche soltanto in una linea prettamente uditiva, a farci immergere da questa mutazione, da questa metamorfosi strumentale, e andiamo a pescare un disco uscito come live at Giant Oberhausen Gattometer in Germania nel 2006, dove Butcher veramente stravolge totalmente il sax, facendo uscire dei suoni incredibili e creando una vera e propria composizione unica e irripetibile. John Butcher stasera, Strumenti in trasformazione. Buon ascolto. E siamo ritornati in diretta dopo questo splendido live. Butcher riesce a fare delle cose assolutamente fantastiche con lo strumento sax, con le sue diramazioni, sax tenore, contralto, baritono, dunque soprano, dunque sicuramente un grande artista, un grande manipolatore dello strumento, e dunque uno strumento che si trasforma, diventa qualcos'altro in termini di suono finale, di vibrazione frequenziale. E l'abbiamo sentito chiaramente, oltre a manipolazioni con i soffi, con suoni quasi forzatamente legati a riverberi, ad echi che rimandano atmosfere sicuramente molto suggestive, soprattutto questa parte finale dove l'elemento percussivo è quello che emerge in maniera assolutamente fondante. Questo elemento percussivo che crea lo stesso Butcher con una microfonazione particolare e con questa vera e propria percussione sui tasti dei sax manipolati anche in precedenza. E queste percussioni sono presenti anche nel prossimo progetto che andiamo a presentare, dentro l'idea appunto degli strumenti in metamorfosi, in trasformazione. E andiamo a pescare un giapponese, sapete che almeno coloro che seguono con una certa assiduità 451 intersezioni, io sono un grande amante dei musicisti sperimentali giapponesi per la loro pazzia, il loro eclettismo, il fatto di non riuscire mai o quasi mai a prevedere quello che combineranno in termini di composizione e di realizzazione sonora. E stasera andiamo a pescare un musicista aperto a 360 gradi in termini di sperimentazione, di ricerca musicale, muovendosi tra l'impro, il jazz d'avanguardia, fino ad arrivare anche alla contemporanea, un'elettronica anche molto molto avanzata, quasi a ricordare certe sperimentazioni dell'elettronica primordiale degli anni 30, 40, 50. E parliamo di Keiji Aino, che dal disco Tenshi no Jinka del 1995, uscito per la Zadig, lavora proprio sugli strumenti in trasformazione, in particolar modo con percussioni e strumenti tipici percussivi giapponesi tradizionali, che vengono però ovviamente manipolati nel suono sia in fase proprio di produzione sonora sia in fase di post produzione con effetti digitali. Ma la cosa interessante di queste due piccole tracce che andremo ad estrarre da questo album della Zadig è lo strumento voce, che emerge pienamente nella sua manipolazione, nella sua trasformazione, con urli, con cigolii, con borbottamenti assolutamente unici, che escono totalmente dall'idea dello strumento tipico della voce utilizzato nella tipologia canonica comune, non solo radiofonica ma in generale musicale. In questo è chiaro un rimando a un grande sperimentatore, a un grande musicista, nonché compagno fino alla fine, cioè Demetrio Stratos, che è stato in Italia, ma non solo, generalmente in Europa e nel mondo, uno dei più grandi sperimentatori dello strumento voce, portandolo alle massime potenzialità. E qua possiamo ricordarlo soprattutto in questi urli, in questi deliri assurdisti di Keiji Aino, in queste due composizioni che adesso andremo ad ascoltare, continuando dunque su questa linea percussiva. Ma la percussione in questo caso viene fatta da strumenti tradizionali, in parte anche dalla ritmica della voce manipolata da Keiji Aino. Andiamoci ad ascoltare, buon ascolto, dall'album Tenshi no Jinka della Zadig 1995. Buon ascolto. Thank you. Thank you. E siamo rientrati in diretta dopo questo vero e proprio delirio assoluto di Keiji Aino dall'album Menshi no Jink 1995 della Zadi, che tra gli strumenti in trasformazione andiamo a pescare ora, passando dalla terra giapponese malata e assolutamente radioattiva in tutte le sue percezioni e trasmissioni, andiamo invece di nuovo in terra inglese, andiamo a pescare un disco storico, il primo lavoro in assoluto pubblicato dal grandissimo saxofonista improvvisatore britannico Evan Parker, che ha fatto parte di progetti importantissimi dalla scena dell'impro radicale, della sperimentazione, lavorando con grandissimi autori, artisti e compositori ormai per praticamente 45 anni. Il primo disco è proprio del 1970 insieme a Derek Bailey, un altro grande, un altro grandissimo come Ann Benning. Evan Parker sax, Derek Bailey chitarra, Ann Benning batteria. Il disco storico è uscito per la Incus Records, è The Topography of Lungs, ed è un disco straordinario, importantissimo, ancora estremamente attuale, pur essendo passati 45 anni, e in questo senso è stato sicuramente un album seminale per tutta l'improvvisazione radicale. E i tre musicisti hanno un vero e proprio, diciamo, una vera e propria attenzione verso una trasformazione continua dell'uso degli strumenti, e in questo caso sax, batteria e chitarra, che si intersecano fra di loro creando un suono unico che travalica il suono dei singoli strumenti, arrivando appunto a un'idea di strumento in trasformazione, in metamorfosi continua. Andiamoci a godere dunque la traccia estratta da questo splendido disco uscito nel 1970 e andiamocela a sentire insieme, continuando il nostro percorso dentro gli strumenti in trasformazione. Buon ascolto. Thank you. Siamo rientrati in diretta dopo questo frenetico flusso sonoro costruito da questi tre grandi compositori nonché tre grandissimi strumentisti. Ecco, la trasformazione totale di questi tre strumenti che creano un suono unico e riescono appunto a rendere assolutamente impercettibili in alcuni momenti i tre strumenti, quasi a confondersi l'uno con l'altro e costruire un blocco sonoro unitario. Un grandissimo disco, lo ricordo ancora, Evan Parker, Derek Bailey e Ian Benning da The Topography of Lungs. 1970. Rimanendo ancora negli anni 70, andiamo a pescare un altro britannico, anche se in realtà è nato in Irlanda nel 1954, ma fin da giovane si è spostato a Londra a sperimentare e a creare grandi percorsi musicali e sperimentativi, soprattutto creando anche un'etichetta importantissima nella scena degli anni 70, estremamente orizzontale nella sua ricerca di progetti musicali nuovi, sempre legati alla sperimentazione e alle avanguardie, muovendosi veramente attraverso canali multiformi, attraversando jazz, rock, punk, contemporanea, minimalismo, veramente di tutto di più. E parliamo dell'etichetta Piano Label, fondata negli anni 70 da questo grande genio che è David Cunningham, famosissimo oltretutto perché è stato uno dei fondatori, nonché componenti di una storica band come The Lounge Lizard. E come diciamo percorso personale, David Cunningham ha aperto la sua produzione personale con un disco splendido, Grayscale, uscito sempre appunto per la sua stessa etichetta Piano Label nel 1977, dove lo stesso musicista sperimenta in termini soprattutto di post produzione su strumenti abbastanza comuni come chitarre, batterie, piani, creando appunto delle sonorità e delle composizioni assolutamente originali e lavorando soprattutto su echi, effetti, riverberi, creando successivamente dei suoni assolutamente sganciati o comunque quasi difficilmente collegabili allo strumento di origine che viene utilizzato. In particolar modo questo disco, che ricordiamo, può essere molto molto vicino anche a certe scelte concettualmente legate al minimalismo, si muove su varie tracce che lavora anche sull'idea dell'errore, del sistema errore, che viene ripercorso nel corso del disco, appunto quasi a diventare composizione in sé, l'errore tecnico della puntina di un vinile o di un mangianastre, perché all'epoca i lettori CD non ci sono, anche adesso i lettori CD danno qualche problema, anche qualche lettore virtuale digitale crea qualche problema, ma l'effetto è un po' differente rispetto al passato, come strumenti come appunto nastri o vinili. E lavora soprattutto in queste due tracce che adesso andremo a sentire, su un synth che viene completamente trasformato e che risulta alla fine produrre un suono di acqua, anche seppur concettualmente, virtualmente un po' forzata. E soprattutto il brano successivo, che si intitola Guitar Systemized, che lavora su una chitarra elettrica che viene manipolata, tagliata, effettata, creando un suono assolutamente unico. Ci andiamo ad ascoltare dunque anche questa parte, questa idea di strumenti in trasformazione elaborato dal grandissimo David Cunningham, da Grayscale, uscito nel 1977. Buon ascolto. Thank you. E siamo rientrati in diretta dopo questo doppio pezzo inserito dall'album splendido di esordio di David Cunningham, Grayscale, 1977. È da terre londinesi o britanniche e dagli anni 70 ci riportiamo agli anni zero e andiamo a pescare per l'ultimo brano, per l'ultimo autore da inserire stasera, 451 intersezione, puntata di stasera, strumenti in trasformazione. Chiudiamo proprio la puntata andando, diciamo, in avanti nel tempo e arrivando al 2003, anni zero, anni dove quest'artista riesce ad esprimere il meglio, anche se ha iniziato alla fine degli anni 90. Parliamo di Adam Butler, in arte Vert, musicista della scena elettronica degli anni zero, muovendosi su vari settori elettronici sperimentali, abbracciando in parte anche il glitch, anche se era nella fase ormai terminale, ma un glitch estremamente ricercato e non certo manieristico o autoreferenziale, spostandosi sempre di più verso anche delle concezioni musicali molto vicine anche alla contemporanea, all'elettronica più sperimentale. In particolare questo disco uscito per la Sonic, intitolato Small Pieces Loosely Joined, Vert lavora molto su tracce anche ovviamente utilizzate di altri autori, altri musicisti, che lui manipola. In particolar modo l'ultima traccia di questo disco, splendido brano che dura più di mezz'ora, è una vera e propria manipolazione, una vera e propria metamorfosi in fase di post produzione, con effetti, sovrapposizioni di una linea pianistica che viene ad intrecciarsi, a sovraregistrarsi e a mutare completamente dall'origine al risultato finale, in maniera assolutamente geniale e suggestiva anche nello sviluppo sonoro, creando un vero e proprio flusso minimalista con questo piano che si interseca quasi ad onde una dietro l'altra che vanno a sovrapporsi. Uno splendido lavoro dove emerge tutta la sua capacità compositiva, la sua versatilità nelle composizioni, ovviamente trattando fonti sonore altrui. Ce l'andiamo a sentire ed è un brano dove il piano acustico emerge in una sorta appunto di percorso sonoro, e chiuderà la puntata di stasera di strumenti in trasformazione. Prima di mandarla in onda vi saluto chiaramente, vi auguro una buona serata sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Vi ricordo anche che lunedì prossimo 451 intersezioni non andrà in onda e dunque ritorneremo il lunedì successivo, che adesso mi sta anche difficile andare a reperire, il 23, dunque il 16 di marzo non saremo presenti in radio, ma torneremo il 23 di marzo per una puntata speciale dedicata a Pier Antonio Pezzinga, che è stato il curatore per anni di Intersezioni, la puntata, la trasmissione che è andata in onda per molti anni su Radio Città Fujiko e che noi di 451 frammenti sonori abbiamo portato avanti con un nuovo progetto, mantenendo il filo rosso della memoria di Pier Antonio, chiamandola 451 Intersezioni. Bene, il 23 di marzo faremo una puntata speciale dedicata a Pier Antonio Pezzinga, manderemo sicuramente in onda una trasmissione delle passate condotte da Pier Antonio per omaggiarla a un anno della sua scomparsa. Io intanto vi lascio con questo, con questa suggestione, con questo percorso sonoro costruito dal grande Vert, da Small Pieces Daily Joined. Buon ascolto e vi auguro una buona serata con le trasmissioni di di Radio Città Fujiko. Vorrei fare sempre una radio io, ma mi sa che sarà molto difficile, chissà in futuro 451 radio, chissà mai. Buon ascolto con Vert, buonanotte.